versione il sole nascente, come perversione orrore giustificante. Paradossalmente entro a Bruxelles come Cristo per Ensor, penso troppo, conseguentemente riscontro un frullato di immagine eterogeneo che i pezzi di realtà ancora dentro. Contento, convinto d'essere giunto al sublime sentimento, la perversione di un tedesco che mette su quel pezzo sul vetto Kinder. Momento è splitter quando vedi il rapper con la chitarra Fender mandare a fare in culo la scala Richter, cioè mai ovviamente. Perversione iniziale, scoprire di saper creare quello che aberrante risulta per un essere normale rabbrividire. Sculture di vomito, statuarie, simulacri, nausebondi che non leccheresti per il semplice fatto che non potresti neanche concepirli. Parli del solito Sambiter, io voglio un cappello di velluto riempito di profumo d'uomo con una prugna che mi galleggia al centro. La droga che prendi forse tipo cura il 20% nell'estasi che sento quando sono lucido a stereo, quando l'alterazione dei sensi mi viene naturalmente senza alcol, pastiglio, cane. È come giocare a scacchi contro un bimbo, perdere poi spiegargli che non serve, si sta maneggiando un coltello. Non ho finito, indico gara di stupidità sul sito. Sei un mito se distruggi un mito, quando il saggio indica la luna il discepolo guarda il dito. Io guardo un giardino fiorito smontato, tra parentesi finto e padruciato. Perversione alimentare, carni magre, andate a male, odore acre. Quando mi cade una fetta di formaggio sulla pavimentazione della stazione centrale, raccolgo, ci soffio sopra poi continuo a mangiare. Discount Pride, cibo tedesco, formaggio fresco, wurstel e gelato al cocco. Il troppo non esiste, triste combinazione di prosciutto e marmellata di amarene. Coscienze vegetariane si illudono che non mangiare un animale sia naturale come mangiare una pianta o un vegetale. Invece no, pensa alla sofferenza di un pomodoro passato sotto un letale passo pomodori. Per questo mangio solo cibi industriali, distanti da piante, animali oppure esseri viventi. Sali polifosfati e conservanti aggiunti, destrosio, monoigliceridi degli acidi grassi. Pasti su pasti, senza badare gli ingredienti. Mangio cibi migliori e non mi si carano stomaco e denti. Perversione morale, pensare, agire personalmente, ipercaratterizzazione dell'essere, tanto che le scelte non sono dettate le scelte ma dal proprio carattere originariamente, mente la quale mente a se stessa. Uccidere ad esempio è veramente deplorevole oppure solo un giudizio di massa? Non faccio appello al senso comune ma al singolo parere di singole persone. L'uccisione, l'eliminazione di tesi è giustificabile a tratti dai punti di vista di coloro i quali fatti e mezzi l'hanno visti dai primi posti. Se non sposti i tuoi occhi è logico che le tue opinioni rimarranno solo pezzi di concezione universale. Per questo perversione mi tocca liberare e immaginare dove non mi puoi toccare, dove non vorresti mai mettere piede. Piscina di uova e cenere, vesti funeree, ate a ledere, superstizione, interiezione.